24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 7 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 13 febbraio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buona giornata da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci seguono ogni mattina e ai quali farà piacere sapere che questa mattina Simone Spezia non ha la cravatta. Eh sì, perché tu sei tornata a Roma, non sei in diretta qua da Milano, ho detto vabbè, quindi sbraco un po', non ho pensato alla diretta Facebook. È in una versione descamisato. così 349-238-6666 per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Oggi puntata, cara Maria, un po' più politica, ovviamente. Vediamo perché... se riusciamo a capire qualcosa di questo gioco dell'oca in cui, come giustamente diceva il nostro ascoltatore che tu hai citato poco fa, sembra di tornare sempre alla casella di partenza, no? Ad agosto è caduto un governo, ne hanno fatto un'altra sorpresa, mai si sarebbe immaginato che si sarebbero messi insieme il Partito Democratico, i 5 Stelle, i renziani che contro i 5 Stelle avevano detto di tutto. Ebbene, dopo qualche mese siamo di nuovo qui a vedere se per caso riescono a far cadere anche questo, per far tornare Salvini con Forza Italia e magari con un pezzo di 5 Stelle con i renziani. Mamma mia. Chissà. Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, buongiorno, come sta? Salve, buongiorno. Tutto bene. Tempo buono. Bene. Vicepresidente voi, sì, della Camera. Per Fratelli d'Italia, sì, i sondaggi vi dicono bene. Però io le faccio una domanda secca. Siccome appunto insieme ai nostri ascoltatori ci gira la testa con questo continuo frullatore in cui adesso sembra che, siccome Salvini non è riuscito a dare la spallata al governo con il voto in Emilia-Romagna, adesso potrebbe correre in suo soccorso Matteo Renzi cercando di farlo tornare al governo insieme a voi e a Forza Italia, quindi facendo cadere per l'ennesima volta un governo. Le chiedo, secco, voi di Fratelli d'Italia ci stareste mai a un governo con Lega, Fratelli d'Italia, cioè voi stessi, Forza Italia, Italia Viva e magari un pezzetto di Movimento 5 Stelle, cioè una Macedonia così? Ma guardi, ho il dovere di dare due risposte. La prima, in ordine al fatto che a mio giudizio questo scenario paradossale è più sulla bocca di qualche giornalista fantasioso. Ma che giornalista fantasioso? Rampelli, ma non è vero, glielo dico io che sta nella testa di molti politici fantasiosi, non solo dei giornalisti, ai quali viene detto di scriverlo. No, siamo seri. È vero, mi correggo, di molti politici e di molti giornalisti fantasiosi, quindi secondo me non c'è questo scenario di fronte a noi. Resta il fatto che nel caso in cui si dovesse materializzare, Fratelli d'Italia non ne farebbe parte, perché non ha alcuna intenzione di contravvenire i patti sanciti con gli elettori di centrodestra quando comunque abbiamo avuto le ultime elezioni politiche. Questo deve accadere in una democrazia efficiente, quello che si dice si deve fare. Anche perché i sondaggi, Rampelli, adesso consiglierebbero a Fratelli d'Italia in realtà di andare al voto, cioè a prescindere da, come dire, da quel che si pensa, anche per mero interesse di partito, no? Insomma. Beh, diciamo che noi abbiamo sempre anteposto gli interessi generali, la destra italiana lo ha fatto sempre rispetto agli interessi di bottega. Però, ci riguarda, conviene all'Italia andare al voto, perché in una fase di grandi trasformazioni è necessario che l'Italia esista sul quadro internazionale con una sua autorevolezza, con la sua capacità di calare progetti importanti, di collaborare, ma anche di farsi rispettare nei confronti dell'Unione Europea per provare ad affrontare le criticità del nostro tempo. Mi perdoni però, Rampelli, lei dice tornare al voto, però nel palazzo, non nelle strade in cui si parla francamente anche d'altro, ma nel palazzo si dice tanto al voto non si andrà, perché adesso il 29 marzo c'è il referendum col quale verrà di fatto detto sì al taglio dei parlamentari, poi bisognerà disegnare i collegi elettorali, poi tra una balla e l'altra si arriva di nuovo alla finanziaria e sotto finanziaria, sotto manovra non si può andare a votare. Di fatto voi chiedete una cosa che non si può fare da un lato, e dall'altro il governo viene immobilizzato da guerriglie, guerricciole. Le sembra una situazione che possa reggere? E d'altra parte però pare proprio che si vada avanti così almeno fino al 2022. Ma guardi, lei è una professionista autorevole ed esperta. Intanto le ricordo che Fratelli d'Italia chiede le elezioni anticipate da quando non è stato possibile mettere in piedi un governo nel 2018 che fosse in sintonia con gli umori dei cittadini italiani. Io ricordo che nel 2018, con la legge elettorale vigente, quindi si poteva andare da soli con i singoli partiti oppure in coalizione, alleati, il centrodestra vinse le elezioni, arrivò primo con qualche milione di voti di vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle e altrettanti milioni di voti di vantaggio rispetto al centrosinistra. Eppure non c'è stata la possibilità neanche di avere da parte del Capo dello Stato, perché ha ritenuto che non ci fossero i numeri e le condizioni, un mandato esplorativo per poter rappresentarsi in Parlamento e costruire un governo in sintonia con i desideri del popolo italiano. Quindi è da allora che noi cerchiamo di dire che l'unica cosa che si possa fare era tornare alle urne, a maggior ragione quando c'è stata la crisi del governo pentaleghista, e quindi ha preso forma un governo ancora più distante rispetto alle sensibilità dei cittadini. Noi paradossalmente abbiamo oggi un governo che è vero che ha una risicatissima maggioranza parlamentare, comunque messa in crisi quotidianamente da continui bisticci, ma non ha una maggioranza popolare, non ha una maggioranza nella nazione, e questo comunque penso che sia un dato importante per chi crede nella democrazia, che andrebbe sanato con elezioni anticipate. Rampelli, ha sbagliato secondo lei la Lega e quindi Salvini, che perché l'ordine è partito da lui, ieri a non far votare contro il processo sul caso di nave Gregoretti? Ma guardi, lei si era ascoltato evidentemente, quindi secondo me è stata scelta da parte della Lega Nord di Salvini una tecnica piuttosto che una decisione di dare un voto di merito. Io penso che questa storia del processo a Salvini sia ridicola, perché le divergenze politiche si compongono nelle sedi politiche, non in quelle giudiziarie. Se Conte o Di Maio fossero stati contrari alle scelte di Salvini sulla Gregoretti, non si capisce perché siano rimasti silenti all'epoca. Se un governo prende le sue decisioni collegialmente, come è, una volta che queste decisioni sono state prese, ne risponde storicamente in tutto il mondo il capo del governo e non un singolo ministro, e quindi per questo dicevo è ridicolo per tutta la Repubblica Italiana solo pensare che una vicenda di portata internazionale che coinvolgeva la Libia, Malta, i paesi nordafricani, 27 stati dell'Unione Europea e anche quelli che ogni tanto ci hanno dato una mano nei ricollocamenti degli immigrati, è ridicolo pensare che queste competenze e questa situazione delicata potesse stare in capo soltanto al ministro Salvini. Quindi insomma diciamo che si sta facendo il classico processo di carattere politico che non fa onore all'Italia. Certo che non passa giorno senza che non soltanto i media, ma soprattutto i media, cerchino di mettere zizzania tra Giorgia Meloni e Salvini. Giorgia Meloni va a Washington, viene accolta con interesse. Maria, non fare la giornalista fantasiosa, vanno d'amore e d'accordo. Io penso no, certo, io penso che per Realpolitik vi convenga assolutamente mostrarvi in intesa. Giorgia Meloni è stata molto intelligente ieri quando si è fatta vedere in Senato ad ascoltare Salvini, ha fatto una mossa da vera politica, però poi ci sono le decisioni da prendere e lì non c'è fumo, c'è l'arrosto. Per esempio, quando ieri un esponente autorevole della Lega ha detto che francamente per le regionali in Puglia alla Lega farebbe piacere vedere qualche volto nuovo, si è capito che ce l'aveva col vostro candidato, con Raffaele Fitto, che propriamente nuovissimo non è, perché è in politica da penso 20-25 anni, è stato europarlamentare di Forza Italia, eccetera eccetera. Siete disposti a rivedere il vostro candidato in Puglia per dare un segnale appunto di amicizia ai vostri alleati leghisti? Ma guardi, questa situazione è effettivamente abbastanza complessa. Noi non siamo un partito unico che ricomprende la Lega e Forza Italia. Ognuno ha la sua sensibilità, ha la sua classe dirigente, ha i suoi progetti prevalenti, però c'è una grandissima sintonia e per questo stiamo insieme ormai dal 94 quasi ininterrottamente. Ciò nonostante siamo appunto partiti diversi, quindi ognuno ha delle idee, bisogna confrontarle quando Giorgia Meloni, dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, ha chiesto comunque maggiore partecipazione, era anche per fare in modo che comunque si riuscisse a trovare delle sintesi rispetto a eventuali pareri discordanti sulle varie partite sul campo, e quindi su questo bisogna sicuramente lavorare, perché è importante in democrazia il confronto e quindi la individuazione. Rampelli, mi scusi, abbia pazienza, non ci faccia il democristiano, ci dia una risposta, insomma. Difenderete Fitto fino alla morte o no? La risposta è che in Puglia, nelle Marche, si era stabilito che Fratelli Italia avrebbe designato i propri candidati, lo abbiamo fatto quando è stata presentata la Borgonzoni come candidata in Emilia Romagna da parte della Lega. Noi l'abbiamo accettata e l'abbiamo fortemente sostenuta con grande convinzione, pur non essendo stata, diciamo così, frutto di una grande discussione all'interno della coalizione di centrodestra, così come abbiamo fatto in Calabria con la governatrice Iole Santelli, stesso identico procedimento, e quindi sinceramente non riteniamo che si debbano fare dei passi in avanti rispetto ai candidati designati, che sono Francesco Acquaroli nelle Marche e Raffaele Fitto in Puglia, che sono due persone fortemente autorevoli, con una grande capacità amministrativa e ritengo anche un grande consenso. Quindi non arretrate su questo, Rampelli. Ma per noi vale la parola data, come Giorgio Meloni ha detto tante volte, insomma, a destra la parola data vale più di una firma, di una sottoscrizione formale. La nostra parola l'abbiamo data e abbiamo fatto la nostra campagna elettorale cercando di far vincere anche la Borgonzoni in Emilia Romagna, non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto un risultato straordinario come coalizione, abbiamo vinto in Calabria, abbiamo fatto altre partite importanti in tutte le regioni e penso che questa volta tocchi. Ma secondo lei Salvini la sosterrebbe se per esempio lei accettasse di essere il candidato sindaco di Roma nella prossima campagna elettorale che riguarderà il Campidoglio? E lei lo farebbe il sindaco di Roma? Guardi, come lei sa, stiamo parlando appunto della Puglia, delle Marche, della Campania, della Toscana, di tutte le regioni che tra brevissimo andranno al voto. Figurarsi un po' se è stata messa la testa sulle elezioni del prossimo anno, quindi diciamo che siamo leggermente in anticipo, nessuno ha mai discusso di questo su alcun tavolo e quindi sarebbe inopportuno a mio giudizio spingersi in avanti. Cercheremo e troveremo un candidato idoneo anche per la capitale, ci mancherebbe, così come per la città di Milano. Grazie Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, buona giornata. Una pausa tra un attimo. Mattino. Ed eccoci di nuovo, 8:35 minuti, 49 secondi, siamo con Graziano Del Rio, capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Del Rio, buongiorno, bentornato. Buongiorno ai nostri microfoni. Eccoci. Grazie, qua. Buongiorno a voi. Allora, è qualche giorno, Del Rio, che notiamo che il governo ci pare e la maggioranza ci paiono piuttosto fermi, imballati, incartati tra la questione della prescrizione e altre, e quindi ci consenta di portarla in apertura su un dossier molto concreto e che la riguarda. Ieri abbiamo dedicato una trasmissione ai dati terrificanti dell'Istat sulla natalità. Giace in Parlamento, e doveva iniziare la discussione in aula lunedì prossimo, la sua proposta, la proposta che la vede come primo firmatario per l'assegno unico familiare. Certo, non è la soluzione al problema della natalità, però è certamente un aiuto per le famiglie. L'idea è di mettere insieme, no, un po' di strumenti che sono già presenti, che sono un po' dispersi, no, tra i vari aiuti familiari. E invece anche là, Del Rio, mi pare che sostanzialmente si sia tutto bloccato nelle peste dei problemi e le tensioni che ci sono tra gli alleati di maggioranza. Ci dà un'idea di quello che succede? Ma guardi, no, la cosa è in dirittura d'arrivo, ecco, dopo diversi mesi che è stata discussa la proposta, finalmente potremo dare alle famiglie italiane un sostegno come hanno le famiglie tedesche o quelle francesi, un sostegno costante, cioè ogni figlio viene riconosciuto come un bene di tutti. E per ogni figlio lo Stato aiuta la famiglia con un assegno mensile e insieme a questo anche dà un sostegno per fruire dei servizi come i nidi per l'infanzia o altri servizi che sono indispensabili alla famiglia per poter, come dire, programmare liberamente la sua vita, per le donne per poter trovare occupazione, perché è importante che anche la donna, mentre progetta la sua vita familiare abbia la possibilità di progettare la sua vita lavorativa e personale. Quindi è davvero una rivoluzione epocale per l'Italia, che ha tanti strumenti, come lei ricordava. Con che tempi Del Rio? Andremo in aula agli inizi di marzo. È stata chiesta dal Presidente del Consiglio semplicemente un paio di settimane per poterci coordinare al meglio con le altre misure che il governo sta studiando, che la ministra competente sta studiando, e quindi per fare una proposta che abbia tanti aspetti. Ma questa dell'assegno unico è davvero, diciamo, la soluzione che tutti i paesi europei hanno cercato di adottare nel momento in cui si presentava, come in Italia, perché ricordiamo che in Italia c'è un inverno demografico, siamo il paese che fa meno figli in Europa, siamo il paese perché tra quelli che fanno meno figli nel mondo, e la Banca d'Italia ha ricordato che se non c'è crescita demografica perderemo circa 15 punti di PIL in meno di 20 anni, quindi vuol dire molto più di tutte le manovre che ogni anno ci apprestiamo a fare. Certo, infatti uno dei problemi è che non è mai stato copiato un modello, quello francese, che dà delle soluzioni immediate. Taglio delle tasse a chi fa più di due figli. Però speriamo che questa sia la volta buona. Ne parliamo soltanto da 30-35 anni, Del Rio, si figuri. Bisogna avere pazienza, però io come pazienza Del Rio, sono 30 anni. Sono diversi mesi che lavoriamo su questo. Comunque monitoreremo. Del Rio monitoreremo. Parliamo di cose che cambiano il futuro del nostro paese. Infatti, fa molto piacere. Senta, Del Rio, corre molto di frequente in questi giorni la voce che lo stallo nel quale il governo è costretto, perché appunto lo stesso Presidente del Consiglio dice dobbiamo correre, ma poi ci si blocca nelle guerriglie della prescrizione o altre che si annunciano. Ebbene, corre la voce che tutto questo sia finalizzato a far cadere il governo Conte, non andare a elezioni, ma sostituirlo con un governo del quale faccia parte Italia Viva insieme alla Lega. Ho posto la stessa domanda prima a Rampelli di Fratelli d'Italia, gli ho chiesto: ci stareste a un governo così? Rampelli ha detto no, o il voto niente. Pongo la stessa domanda anche a lei: nel caso si venisse meno questa maggioranza, voi sareste disposti come Partito Democratico a far parte di una maggioranza nuova che includa magari anche Salvini, contro il quale avete fatto il governo giallo-rosso? No, credo che l'Italia abbia bisogno di chiarezza e di proposte molto serie e coerenti per riprendersi da una crisi che peraltro sta arrivando in maniera pesante. Quindi fare pasticci o ammucchiate non mi pare esattamente il caso. Questa maggioranza ha davanti a sé un progetto. Se questo progetto non si riesce a realizzare, bisogna prenderne atto e ridare la parola agli italiani. Quindi eventualmente voto, dice lei. Beh sì, chiaramente poi c'è il Presidente della Repubblica, quindi io non mi spingo mai fino alle soluzioni definitive, perché ognuno deve stare, diciamo, nel suo compito, ma certamente noi non siamo disponibili a fare maggioranze di governo con la Lega, perché questo non avrebbe nessun senso, diciamo. Abbiamo troppe idee diverse su troppi campi. Se ne arriva una sulla prescrizione oppure no? Oggi leggevamo di un'ipotesi per la quale il suo omologo al Senato, Marcucci, starebbe elaborando una proposta per la quale si ferma la prescrizione dopo l'appello, sia per condannati che per assolti. Non lo so, è un'ipotesi, io non ci capisco più niente. Mi sembra che siate un po' bloccati là. Ma guardi, io penso che questa discussione sulla prescrizione abbia assunto delle dimensioni veramente fuori misura, perché come per i discorsi precedenti sull'assegno per i figli discutiamo di cose serie. Il vero problema di cui hanno bisogno gli italiani, le aziende e i cittadini italiani è di avere una giustizia giusta e breve. Quindi noi abbiamo bisogno di avere processi giusti e brevi, che vuol dire che la prescrizione è semplicemente, come dire, un freno a mano che si tira in situazioni di emergenza, non è la cosa di cui dovremmo discutere. Dobbiamo discutere di come accelerare il processo penale, perché se il processo non dura 15 anni non c'è bisogno di fare nessuna prescrizione, ovviamente. Quindi noi ci stiamo concentrando su questo adesso, questo è il lavoro che sta facendo il Partito Democratico, i suoi esponenti del governo e quelli in Parlamento, per trovare alcune misure che sono dalle pene alternative alla notifica elettronica, al potenziamento di organici di magistratura e tribunali, quindi le misure vere che danno tempi certi ai processi. Questa è la discussione di queste ore e di questi minuti. Sulla prescrizione, sinceramente, i limiti certamente che ha la legge attualmente in vigore noi li abbiamo segnalati più volte, ma mi pare che tutti questi limiti possono essere tranquillamente come dire, superati se vi sarà una durata del processo ragionevole e seria e appunto giusta. Quindi abbiamo bisogno di discutere del vero problema, che è questo. Ora è già pronta una bozza, quindi come lei sa il precedente governo ha impiegato più di un anno perché la riforma Bonafede è entrata in vigore, ma doveva entrare in vigore con la contemporanea riforma del processo penale. Ha impiegato più di un anno e non è riuscito a fare una proposta. Noi adesso tra questi giorni, insomma, se non sarà lunedì sarà all'inizio, sarà durante la settimana, presenteremo una proposta molto seria di riforma del processo penale che credo riporterà la discussione sui giusti binari. Speriamo che sia presto. Quanto tempo pensa che andrà avanti, diciamo, la guerriglia di Italia Viva dentro il governo? Perché ogni giorno c'è un voto di Italia Viva con Lega e Forza Italia. Ieri Italia Viva al Parlamento Europeo ha lasciato il gruppo nel quale siete compresi tutti, quel gruppo dei socialisti europei, ed è andata con i macroniani. Insomma, sembra quasi delinearsi una strategia per cui Italia Viva in questo momento è più vicina a Forza Italia che non sicuramente all'area del Partito Democratico. Quanto tempo andrà avanti questo e secondo lei a chi fa più danno? Ma io credo che faccia danno in generale all'immagine e alla efficienza del governo. Quanto andrà avanti un continuo distinguo dipende molto da Italia Viva, quindi è una domanda che bisogna fare a loro. E io spero che come dire, i toni che si sono raggiunti in questo periodo sulla prescrizione e su altro non siano mantenuti, perché alla fine penso che anche loro non avranno nessun beneficio da un continuo distinguo. Uso spesso questa immagine che quando una squadra gioca a qualsiasi sport non c'è nessuno che tra i giocatori della squadra si vuole intestare la vittoria quando è finita la partita. Tutti dicono è merito del gioco di squadra, no? E quando c'è qualcuno che vuole troppo, come dire, attribuirsi meriti eccetera, va a finire che lo spogliatoio non tiene più, ecco, questa è la situazione in cui siamo. Io penso che i desideri di visibilità siano legittimi ma vadano anche un po' temperati, dopodiché non voglio pensare, non oso pensare che queste distinzioni siano per problemi di visibilità, spero che siano semplicemente per aiutare la discussione. Una pausa. Mattino. Salvini cosa ha fatto? Una nave militare con a bordo gli stranieri, ma è normale che devono stare lì fermi, anche perché secondo me serve un controllo medico se ci sono malattie che possono contagiare la popolazione, se ci sono pregiudicati sopra quella nave. Ma rendete conto? Scusa, ma sapete spiegarmi solo perché quando ci sono state le elezioni in Umbria, governo PD, 5 Stelle, la nave è stata ferma in mare? Quando c'è stata le elezioni in Emilia-Romagna, governo PD, 5 Stelle, un'altra nave, 12 giorni in mare, lì nessuno dice niente. Oh, e veniamo al temone politico di giornata, che è questo via libera del Senato Delrio non al processo, alla possibilità di processare Salvini, perché poi andrà davanti al GUP, bisogna vedere che cosa farà la procura, cosa farà il procuratore, insomma lo sappiamo, il procedimento è un po' più lungo, un po' più complesso di così. Cosa rispondete per esempio all'ultimo ascoltatore? Che non sono ben informati, purtroppo la propaganda funziona. C'è una sostanziale questione, cioè c'è il Tribunale dei Ministri, i ministri, come te lo dico per gli ascoltatori, non sono processati, non vanno a processo così, semplicemente, c'è un tribunale apposta per loro, per garantire, diciamo, la loro libertà. E allora questo tribunale ha chiesto di poter indagare, di fare in modo che Salvini venga indagato, e quindi c'è una richiesta specifica, perché si pensa che Salvini abbia agito non nel rispetto della legge, ma al di sopra della legge. No, ora, ma Delrio, le chiedo politica, quello che chiede l'ascoltatore politicamente è questa accusa di incoerenza rispetto al fatto di aver tenuto delle navi a largo sotto elezioni, per così dire, in particolare il caso dell'Umbria mi viene in mente, di averle tenute là a largo, insomma. Ma dal punto di vista della coerenza, noi abbiamo, per quelli di noi che appunto hanno parlato, hanno chiesto di farli sbarcare il più rapidamente possibile, perché non è che i controlli sanitari non possono essere fatti invece che in mezzo al mare a 40 gradi su un molo, quindi c'è una questione di dignità delle persone, quindi si può fare tutto, sicurezza, difesa dei confini, tutte queste storie che la propaganda di Salvini ieri ha messo in campo, si può fare benissimo invece che sequestrando persone in mezzo al mare su un molo. Chi non lo fa ovviamente ne accetta le conseguenze. In questo caso Salvini è al di sopra o è come tutti i cittadini normali dentro le regole dello Stato e dentro la legge? Quindi il problema di ieri era semplicemente questo. Ripeto, c'è una richiesta di un tribunale dei ministri che dice: ci fate esaminare questo caso o lo proteggete o lo fate scappare dal processo come è scappato la volta scorsa? Perché non dimentichiamo che la volta scorsa Salvini è scappato dal processo e stavolta non è scappato semplicemente perché i numeri comunque lo avrebbero portato al processo. Quindi la differenza è sostanziale, c'è un atto ufficiale del Tribunale dei Ministri, e quindi per noi il tema è semplicissimo: politicamente le persone vanno fatte sbarcare e ricollocate nel momento, anche facendole attendere a terra, perché il ricollocamento va fatto. Per Salvini invece le navi erano un oggetto di propaganda politica, quindi le persone e le navi erano semplicemente un modo con cui lui voleva dimostrare al mondo che fermava l'invasione, invasione che peraltro non c'è mai stata, perché nel frattempo arrivavano centinaia di persone non sulle navi regolari ma su barchini abusivi, quindi una totale alterazione della verità. Noi dovevamo giudicare ieri se questo era stato fatto nell'interesse supremo del paese o se invece era stato fatto per propaganda politica o altri scopi. Era a noi è parso evidente che sia stato fatto per propaganda politica. E poi vediamo che cosa deciderà il giudice. Spero che sia spero che il Ministro della Repubblica, come dire, possa dimostrare di aver agito, ma lo farà nelle sedi proprie, se verrà mandato a processo. Senta, onorevole Delrio, vorrei invece farle una domanda su un altro tema di attualità che è oggi su tutti i quotidiani, che in realtà sono due, e torna qui la sua competenza di ex ministro delle infrastrutture. Vado alle pagine economiche dei giornali, per esempio Repubblica, vedo da un lato all'Italia i conti truccati per favorire Etihad, rischio processo per 21, l'inchiesta della Procura di Repubblica vede indagati 21 persone per bancarotta fraudolenta, falso i bilanci, ostacolo alla vigilanza. E poi accanto, nella pagina accanto di Repubblica, il governo su Air Italy, salvare l'occupazione. Poi vado sulla Stampa e vedo che sotto la foto del commissario Enrico Laghi c'è questa bio: nel 2015 è stato nominato commissario di Ilva, nel maggio 2017 è diventato commissario di Alitalia ed è tra i 21 indagati, abbiamo appreso, da ieri è liquidatore di Air Italy, cioè un'altra società di trasporto aereo che è in crisi. Non è un po' strano? Lo chiedo a lei che è stato ministro delle infrastrutture, quindi la storia di Alitalia la conosce bene. Sì, la storia dell'Italia la conosco bene e adesso vedremo a quali conclusioni arriverà la magistratura. È chiaro che si tratta di reati penali, quindi se qualcuno ha truccato i conti per favorire una compagnia a danno di Alitalia, cioè un socio a danno di altri soci, sarebbe veramente grave. Il fatto di avere il dottor Laghi, che è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico in diverse occasioni e stavolta da ultimo come liquidatore, è un fatto che dipende dalla sua competenza, che molti hanno riconosciuto, quindi io non ho niente di particolare da dire, spero che possa dimostrare la sua innocenza, ma il problema vero qui mi pare è il fatto che abbiamo una crisi molto forte nel settore aereo in un momento di espansione, anche se di grande concorrenza, quindi bisogna che siccome queste crisi vengono da lontano, nel 2016 io personalmente ho fatto in modo che non fallisse in Meridiana insieme a tutto il governo, cioè abbiamo trovato un partner come era Qatar Airways per rilanciare l'azienda di Meridiana. Mi sorprende molto che come dire, non si sia riusciti a aiutare questa società a stare in piedi, due soci, perché è un problema di ricapitalizzazione tra i due soci, a stare in piedi. Mi auguro che adesso ci siano delle azioni molto forti, perché abbiamo bisogno assolutamente per la nostra economia e il nostro turismo di compagnie di bandiera e di compagnie italiane anche, non solo di compagnie straniere. Ci sollecitano anche gli ascoltatori, tra l'altro, del Rio, e mi scusi se torno a bomba sul tema di quello che è successo durante le elezioni in Umbria. Insomma, non è che mi abbia risposto proprio in pieno, le chiedo di rimanere stretto su questa questione, cioè come è stato possibile lasciare quella nave 11 giorni senza sbarcare. Ma no, in realtà non è successo questo, insomma, adesso i dati sono un po' differenti. I dati erano che la ministra Lamorgese stava a quello che ci ha spiegato, perché anch'io ho chiesto spiegazioni su questo punto, mi spiego? Quindi ho chiesto anch'io spiegazioni e la ministra diceva che stava, appunto, durante il procedimento stava cercando i ricollocamenti. Quindi la risposta del Ministero dell'Interno è che il Ministero dell'Interno dà il porto di sbarco nel momento in cui riesce ad avere tutte le informazioni relativa, appunto, a sicurezza, sanità e anche agli accordi internazionali e agli accordi europei, perché, come sapete, finalmente da quando c'è la ministra Lamorgese i ricollocamenti nei paesi europei avvengono con più rapidità e con più intensità, che vuol dire che si può, appunto, fare le cose per bene anche senza fare una propaganda come quella di Salvini. Maria. Quindi la ministra Lamorgese ha dovuto attendere che fossero fornite tutte le informazioni necessarie prima di decidere lo sbarco, e questa è la spiegazione? Questo è quello che ci è stato detto, perché noi sollecitiamo che la cosa avvenga sempre più e sempre più celermente. Man mano che si affinano le procedure di ricollocamento, ovviamente lo sbarco sarà sempre più rapido, perché non dobbiamo dimenticare che l'Italia non può essere lasciata sola di fronte a questo tema degli sbarchi, ha bisogno di avere la collaborazione di tutti i paesi europei, e qualche passo avanti è stato fatto finalmente, perché prima l'Italia non partecipava ai vertici dei ministri degli interni, sui 22 vertici o quelli che sono, l'Italia si è presentata, mi pare, una volta con il ministro Salvini. Adesso la ministra è riuscita a fare l'accordo, un accordo anche se parziale secondo noi, perché il vero accordo è quello di cambiare il regolamento di Dublino, cioè cambiare il regolamento che prevede che chi salva deve, chi fa sbarcare sul proprio territorio, poi debba procedere alle identificazioni e tutte le valutazioni sul proprio territorio. Per noi questo regolamento va cambiato, questo è un punto essenziale, l'avevamo già votato in Parlamento europeo, peraltro contro il voto della Lega. Grazie Graziano Del Rio, del Partito Democratico, capogruppo alla Camera, per essere stato con noi. Alla prossima. Ogni giorno alla sua pena, vero Del Rio? Quale ce l'avete oggi? È andato, Maria, insomma, è così. Vediamo che pena sarà domani alle 8:20. Aspettiamo come sempre i nostri ascoltatori, Maria. Ma noi ci tiriamo su, e tiriamo su anche gli ascoltatori. Abbiamo tante altre cose, non soltanto la politica da raccontare. Ci si prova almeno. Maria, domani alle 8:20. Ciao.